Ci senti? Sì. Ci sei? Sì, sì. Ok, dai, 18.06, nuovamente in diretta. Dove stai? Allora, io sto nuovamente, insomma, verso la testa. Sono andato a verificare, insomma, le informazioni che mi avevate chiesto prima. Praticamente è successo che in quel punto che descriveva, insomma, davanti al ministero, il portone era difeso, come dicevo, dai finanzieri, di blindati, eccetera. In quel punto là, diciamo, è stato rilevato un eccesso di bombe carta e quant'altro, e quindi là, insomma, quella testuggine là di finanzieri ha deciso di fare una piccola carica di alleggerimento, hanno sparato qualche fumogeno e hanno avanzato leggermente, però quella cosa là ha per un attimo fatto spezzare il cordone, il corteo, perché l'hanno fatto fra l'altro nella penultima parte del corteo, dove stavano gli immigrati, insomma, lì è stato il fuggi generale, e quindi però si è ricomposto. Sì, no, adesso si è ricomposto, cioè quello che insomma volevo dire alla fine era questo, insomma, tutto si è ricomposto e il corteo sta adesso tranquillamente andando. Siamo arrivati proprio con il camion di testa a Castro Pretorio, alla Biblioteca Nazionale, insomma, all'altezza della Biblioteca Nazionale. Sì. Va bene, dai, ci confermi fondamentalmente. Ci confermi fondamentalmente quello che più o meno eravamo riusciti un po' a capire dalle altre telefonate, comunque. Sì, no, era questo, insomma, mi avete chiesto, io sono andato a verificare. No, giusto, per carità. Logo, insomma, questo era là e quanto. Adesso stiamo un po' andando, il corteo ha un'organizzazione abbastanza determinata, insomma, ci stanno cordoni e cordoni per ogni spezzone, la testa ha più cordoni, insomma, si va a passo d'uomo, è abbastanza in blocco, perché naturalmente, insomma, adesso si apre la parte, insomma, più delicata, quella dell'ingresso verso il Ministero dei Trasporti, le ferrovie, e poi a Porta Pia, insomma, lì vedremo che cosa, cioè come andare a ricomporre, insomma, quella accampata che si è detto fino adesso come obiettivo finale del corteo, insomma. Quindi magari ci risentiamo dopo, appena il corteo entrerà a Porta Pia. Con una raccomandazione, pronto, mi senti? Sì. Con una raccomandazione, anche per spiegare, insomma, noi cerchiamo di spiegare via radio quello che sono anche immagini che non possiamo trasmettere, e visto che i media trasmettono, insomma, immagini deformanti, ecco, cerchiamo di dare un senso a quello che raccontiamo per quanto riguarda la conclusione anche politica di questo corteo, no? Quindi non solo la descrizione, eccetera, eccetera, ma anche che tipo di iniziative sono previste adesso a conclusione di questa manifestazione, in modo che cerchiamo di raccontare e di dare un senso adesso, ascoltatori e ascoltatrici. Sì, magari aspettiamo effettivamente, insomma, di arrivare in fondo e per farle queste conclusioni. No, dai, ci risentiamo fra un po'. Ok? Va bene. Grazie. Va, ciao, a dopo, dai. Ciao, ciao. Sudandomi le peggio fatiche, ma l'obiettivo che mi sono dato sarà